si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Federico Taddia, benvenuti a Si Può Fare, siamo in diretta su Radio 24 anche oggi in sostituzione di Alessio, Maurizio e Carlo Gabardini, veri padroni di casa, ma vista la giostra delle vacanze natalizie, ci sono io oggi alla guida del programma, 2 ore per andare a scoprire il paese migliore, come sempre con le piccole storie. Oggi parleremo di crowdfunding con una coppia che ha scelto questa forma per trovare i fondi necessari al proprio matrimonio, poi le grandi storie, con noi oggi la voce italiana di Salgado, andremo a scoprire questo progetto di riforestazione in Brasile, questo istituto terra protagonista del film Il sale della terra di Wim Wenders in queste settimane, spero l'abbiate visto perché è un piccolo capolavoro, e poi la musica dal vivo, con noi un basker milanese soltanto che per un paio d'ore ha abbandonato Piazza del Duomo per essere qua con noi negli studi di Radio 24. Ma come sempre a Si Può Fare apriamo l'edicola. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. L'edicola di Radio 24 oggi è stata aperta da Mauro Meazza, che è ancora qua con noi con altri articoli, altri approfondimenti, altre pagine da sfogliare. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei pronto? Ti sei tenuto qualche arretrato? Sì, ho cercato anche qualche buona notizia, o comunque qualche notizia un po' diversa da quello che abbiamo visto campeggiare sui giornali, la vicenda del dubbio della applicabilità a Berlusconi di questo schema di decreto sui reati tributari, piuttosto che le vicende dei migranti che insomma sono dolorose e continuano a tenere banco, no? Ho trovato qualcos'altro, insomma. Vai, andiamo a leggere i giornali con te. E allora volevo cominciare da una richiesta assolutamente curiosa che viene dall'estero. Il Guardian, il quotidiano inglese, cerca un direttore, ma fin qui non ci sarebbe niente di sorprendente, ma lo cerca con un curriculum online, lo fa online direttamente sul suo sito, lo riferisce Caterina Soffici sul Fatto Quotidiano di oggi. Fa online con una notizia nella notizia, perché anche in Gran Bretagna, che è, come scrive Caterina Soffici, una patria della meritocrazia e del libero mercato, è difficile che posizioni di questo rilievo, appunto il direttore di un giornale, siano cercate sul web. Normalmente le aziende si affidano a cacciatori di teste che forniscono i nomi papabili, poi confrontano i candidati selezionati e così via, poi ci sono anche selezioni interne, eccetera. Invece questa volta il Guardian, che tra l'altro è stato uno dei giornali più sensibili alla svolta digitale in questi anni, il Guardian ha voluto fare una scelta di massima trasparenza e viene cercato il direttore nella sezione Lavora con noi, la sezione del Guardian online, dove si può presentare la candidatura per diventare direttore del Guardian. Quindi si può fare, si può, volendo anche mandare una candidatura, naturalmente poi ci immaginiamo che saranno prese in esame le, come dire, le attitudini dei potenziali autocandidati, perché si spiega che bisogna essere credibili come leader di un'organizzazione giornalistica che ha ambizioni globali, avere un background giornalistico fuori dal comune, essere innovatori, essere dediti a un giornalismo indipendente e aperto, essere capaci di lavorare sotto pressione. Se pensate di avere queste caratteristiche e siete disposti a lavorare a tempo pieno, tutto questo si legge sul sito, allora compilate la domanda, allegate il curriculum, una lettera di referenze e quello che in tutto il mondo anglosassone è conosciuto come il personal statement, ossia in non più di 1000 parole, dovete anche spiegare la vostra visione per il futuro del Guardian. E questo dall'estero. Invece, per quello che riguarda l'Italia. Si può fare, ma qui ci va aggiunto un po' un punto di domanda. Si può fare? Ma gogna online per chi non paga. Oristano tutti contro il sindaco, lo leggiamo dalla Stampa. I cittadini pronti alla class action, interviene anche il garante della privacy. Allora, che è successo? Lo scrive Nicola Pinna, che da Oristano ci segnala che a dicembre il comune di Oristano ha messo sul proprio sito i nomi di una serie di contribuenti, automobilisti che non avevano pagato le multe o contribuenti, cioè cittadini del comune che non avevano pagato la tassa sui rifiuti, quella che abbiamo imparato quest'anno a chiamare Tari, cioè quest'anno 2014 a chiamare Tari. Naturalmente sono scattate subito le polemiche, quindi si può fare o non si può fare, chi lo sa. La questione è intricata dal punto di vista giuridico, perché le norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni si scontrano in questo caso con la legge sulla privacy, ma quello che ci interessa anche approfondire, ma poi funziona questo tipo di gogna mediatica in qualche modo? Beh, in parte sembra, a leggere il resoconto di Nicola Pinna, in parte sembra di sì. Le ganasce fiscali, scrive Pinna, non fanno più paura ai tempi dei social network, la gogna sul web sembra lo strumento più adatto per costringere i morosi a saldare i debiti con la pubblica amministrazione. Il comune di Oristano ci ha provato, ha pubblicato sul suo sito i nomi di chi ha conti in sospeso ed è finito però nella bufera. Prima ha inserito l'elenco di 644 automobilisti che non hanno pagato le multe. Pochi giorni fa, nonostante il richiamo del garante della privacy, ha redatto l'elenco dei cittadini che non hanno versato la tassa sui rifiuti. L'effetto non è stato quello sperato. Qualcuno spaventato è corso all'ufficio postale a versare il dovuto, ma molti altri invece si sono rivolti a un avvocato. Le associazioni dei consumatori sono pronte alla class action per il rischio, c'è un rischio quindi per l'amministrazione di dover pagare centinaia di risarcimenti. Allora, fatta questa seconda figuraccia appunto con la tassa rifiuti in pochi giorni, la giunta comunale è corsa ai ripari e i funzionari hanno ricevuto l'ordine di far sparire velocemente i file dal sito. Il vice sindaco Giuseppina Uda annuncia provvedimenti contro i funzionari che hanno pubblicato i nomi dei morosi. Però appunto il sindaco Guido Tendas, che già è stato preside del liceo classico e pomo della discordia, insomma, sembrava determinato, perché aveva detto è normale che siano pubblici i ruoli appunto, cioè le iscrizioni a ruolo delle persone che hanno debiti con il comune. Se la pubblicazione servisse a far emergere la necessità che tutti versino quanto dovuto, beh, direi che è uno strumento adatto. Non la pensa allo stesso modo il garante della privacy, dice non è così, in realtà la diffusione dei dati personali è ammessa da parte dei soggetti pubblici solo se prevista da una norma di legge o da un regolamento, e in questo caso mancava i presupposti, quindi sembra che non si possa fare, anche se in qualche modo l'idea che il web potesse dare una mano contro i renitenti all'erario, beh, poteva sembrare curioso in Italia, dove sappiamo che la correttezza fiscale non è proprio la nostra prima virtù. Nella stessa pagina, notizia si può fare per davvero, nuovo cinema Pantelleria, l'isola si tassa, salva la sua sala, maxi colletta di cittadini di VIP, tra cui Armani, per evitare di spegnere l'unico schermo. Quindi c'è stata una colletta a Pantelleria che ha consentito di salvare l'unico cinema dell'isola. Tutto questo sulla Stampa, la gogna mediatica da una parte e il cinema di Pantelleria salvato dalla generosità degli abitanti o dei villeggianti dell'isola, per si può fare. E poi un'altra cosa, si può fare, si può guardare la TV e contemporaneamente guardare un tablet? Sì, certo che si può fare, infatti lo facciamo in tanti, addirittura in America ormai il tablet batte la TV, 177 a 168. Cosa sono questi due numeri? Sono i minuti in cui, secondo un calcolo che è stato fatto in America, gli americani appunto stanno più tempo davanti al tablet che non davanti alla TV. La notizia viene riferita da Massimo Sideri sul Corriere della Sera. Per la prima volta, scrive Sideri, e precisamente già dal terzo trimestre del 2014, gli utenti statunitensi hanno passato più tempo davanti ai tablet e agli smartphone che davanti ai media per eccellenza, cioè al media per eccellenza, quello che ha contribuito a definire la storia della seconda parte del Novecento, quindi la televisione. Secondo i dati che sono forniti da Flari Analytics e da Comscore e poi rilanciati da Business Insider, da cui Sideri li ha prelevati, gli americani spendono in media 168 minuti al giorno davanti alla televisione, 177 sui tablet e sugli smartphone. In realtà la TV, almeno negli Stati Uniti, tende a difendersi, perché questa media di 168 minuti di televisione regge dal primo quadrimestre del 2012. Mentre il tempo passato sui tablet e sui telefonini di ultima generazione è balzato da 109 a 177 minuti, e con la trasformazione delle abitudini di consumo sta esplodendo anche il tempo che viene passato in compagnia di questi nostri nuovi amici. E poi c'è appunto l'uso, e lo riferisce Sideri, del tablet insieme alla televisione, cioè di guardare un programma televisivo ma contemporaneamente guardare il proprio tablet, il proprio smartphone, magari per commentare sui social network, su Twitter, su Facebook, quello che volete, insomma, il programma che si sta seguendo, in una sorta di visione collettiva a distanza, accomunati appunto da social network. Stessa pagina per una notizia che viene ripresa anche da altri giornali: una cosa che non si può fare, non si può utilizzare un disegno di una suocera con il mattarello minacciosamente dietro la schiena per fare una pubblicità. E allora a Palermo, dove appunto questo disegno che voleva essere ironico ma come tale non è stato percepito, è stato percepito invece come sessista, ebbene questa pubblicità sarà modificata. Comune, azienda, lo scrive il Corriere della Sera, lo scrive tra l'altro anche Avvenire, sarà modificata per evitare, per rispondere così alle accuse di sessismo. E poi un si può fare vero, un si può fare di speranza, in qualche modo, proprio da Avvenire. Vince il tumore all'utero, riesce a diventare madre, un parto eccezionale di una 32enne di Parma. È un caso che negli ultimi 20 anni, ci spiega Dino Frambati, è stato possibile soltanto in altri 1000 circostanze, una ventina in Italia. Quindi questa neomamma che è riuscita a sconfiggere il tumore e a diventare madre, una 32enne di Parma che aveva sofferto per un tumore al collo dell'utero, ma che ora ha partorito una settimana prima di Natale, riferisce Avvenire, una bambina, e che una bambina che è in piena salute. Cambiamo decisamente argomento per una questione economica. Si può fare che la Grecia se ne vada dall'euro? Beh, allora, secondo i giornali di questa mattina che riferiscono queste anticipazioni di Der Spiegel, il settimanale tedesco Der Spiegel, si può fare per la Merkel e Schäuble, si potrebbe fare. Uso il condizionale perché il settimanale si limita a riferire fonti interne al governo ma non le precisa, più che una notizia, come dire, perfettamente circostanziata, sembra quasi un sondaggio, una sorta di esplorazione, vedere come la prendono, come si reagisce. Infatti non a caso viene diffusa in un fine settimana a mercati chiusi. Lo leggiamo, ma sta su diversi giornali, sul Corriere della Sera, nelle pagine di economia. Berlino considera ipotizzabile un'uscita di Atene dall'euro. Lo riferisce lo Spiegel, citando fonti governative, sostenendo che la cancelliera Angela Merkel e il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble avrebbero cambiato idea al riguardo, non temerebbero ripercussioni gravi. Secondo Spiegel, infatti, per Merkel e Schäuble un'uscita della Grecia dall'euro sarebbe ora gestibile perché ci sono i progressi che sono stati fatti nell'eurozona dall'apice della crisi del 2012, ad esempio il fondo salva stati, che ha una dotazione di 500 miliardi di euro. E allora, se, perché qui comincia la lunga teoria dei se dopo le elezioni del 25 gennaio la Grecia avesse un governo guidato dalla sinistra di Alexis Tsipras, che, come ha dichiarato, dovesse poi dar corso alla sua promessa di mettere fine alla politica dei risparmi imposta dall'Unione e dal Fondo Monetario e dalla Banca Centrale Europea, allora cancellando anche una parte del debito greco, un'uscita di questo paese dalla moneta unica sarà inevitabile. Nella cancelleria, cioè né la signora Merkel né il Ministero delle Finanze hanno voluto commentare queste informazioni di Spiegel. Un portavoce di Schäuble, del ministro Schäuble, ha rimandato a un monito del ministro di lunedì contro un cambio di rotta di Atene. Se la Grecia imbocca una strada diversa, aveva detto Schäuble qualche giorno fa, le cose si fanno difficili e le elezioni anticipate, sempre aveva dichiarato Schäuble, non cambiano nulla rispetto agli impegni presi dal governo greco. Ogni nuovo governo deve rispettare gli impegni che sono stati presi da quelli precedenti. Non è però chiaro come uno Stato possa uscire dall'euro, questo lo sappiamo, è stato analizzato più volte, non esiste una sorta di uscita di sicurezza dall'euro, si tratta di avviare una fase monetaria assolutamente nuova e inedita per il paese che dovesse decidere questo percorso. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora buona giornata ancora, buona domenica da Mauro Meazza, indegnamente sostituto dei titolari qui di Si può fare. Stavamo annunciando una serie di notizie Si può fare, ma adesso vediamo invece, come di consueto la domenica mattina, che cosa ci propone il domenicale, il supplemento culturale del nostro giornale del Sole 24 Ore. Per farlo abbiamo al telefono Armando Massarenti, che del supplemento è il responsabile. Buongiorno Armando. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buona domenica anche a te. Allora, voi oggi aprite con presentiamo ai lettori Einstein. Allora ti premetto che, essendo stato io l'incubo del mio professore di fisica e matematica, spiegami perché dovremmo leggere questo articolo, che è intitolato Teoria della curiosità generale, che è il nostro articolo di apertura oggi sul supplemento culturale. Ma dunque, questo il motivo è molto semplice. Beh, intanto il pretesto è il centenario della teoria della relatività generale, ma c'è anche una notizia molto importante che noi diamo, che è quella della pubblicazione da parte della Princeton University Press dei collected papers di Einstein, cioè loro pubblicano praticamente tutti i 30 volumi delle opere complete di Einstein, per adesso soltanto i 13, ma comunque è prevista la pubblicazione completa delle opere di Einstein, e questo permette di avere una presa diretta sullo straordinario pensatore e anche uomo di grande buonsenso e di grande, come dire, onestà intellettuale e moralità, che era appunto Albert Einstein, non soltanto un grande scienziato. E a spiegarci questo sono alcune firme piuttosto importanti, cioè intanto Jürgen Rehn, che è il direttore del Max Planck Institute per la storia della scienza di Berlino, ma poi uno delle nostre firme di punta per la fisica, che è un grande fisico, che è Carlo Rovelli, che ci racconta un Einstein appunto non solo scienziato, ma anche molto attento ai costumi, attento alle, appunto, anche ai valori di fondo della nostra società, anticipatore di tante battaglie. Insomma, stiamo parlando di un uomo che è vissuto fino al 55, un uomo ancora dell'Ottocento per certi versi, rivoluzionario, perché nel 1905, come si sa, 25 saggi fondamentali che hanno rivoluzionato tutta la fisica in tutti gli ambiti più importanti, fino ad arrivare appunto al 1915 con la teoria generale della relatività. E però qui appunto Rovelli ci dice che inizia intanto con una frase molto bella: non ho speciali talenti, sono soltanto appassionatamente curioso, di cui il titolo Teoria della curiosità generale. E questa curiosità lui la trasmette un po' a tutti, come mostra l'articolo, a tutti quelli che gli facevano delle domande, ma spesso ragazzini, ragazzine che chiedevano che cosa dovevano sì. fare per c'è, sviluppare c'è la un loro, passaggio, loro Armando, che c'è un passaggio, Armando, che mi ha molto rincuorato, anche pensando ai miei ricordi scolastici, peccato averlo appreso solo ora. A una bambina che gli scrive lamentandosi delle difficoltà con i numeri, Einstein risponde: non ti angosciare per le difficoltà che hai con la matematica, quelle che ho io sono ancora più grandi. Un uomo ironico e anche schivo per certi versi emerge da questo ritratto di Rovelli. Quasi un protagonista controvoglia. O... Controvoglia, beh, se si pensa che, ecco, c'è un'altra frase molto bella di lui, questa volta adolescente, che dice: il rispetto dell'autorità non pensa ed è il più grande nemico della verità. E poi dice che, appunto, che quando diventerà famoso, per punirmi per il mio disprezzo per l'autorità, il destino ha fatto un'autorità di me stesso. E poi scrive ancora: adorato oggi, però appunto è molto diffidente di questa sua fama, no? Adorato oggi, attaccato persino col cipiso domani, questo è il fatto di coloro dei quali si impossessa l'annoiato pubblico. Insomma, sempre molto attento e molto schivo in questo senso. Sì, ironico e anche autoironico. Quindi. Autoironico e un po' anche scocciato da questo eccesso di attenzione e di, no, e di autorità che spesso si è paradossalmente guadagnato, devo dire, con tutti gli assoluti che ancora oggi dobbiamo riconoscergli, perché è stato veramente il più grande scienziato del Novecento, quello colui che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il mondo in una maniera rivoluzionaria. Ecco, tra l'altro, forse per un contrappasso per il mio cattivo rapporto con la fisica e la matematica, tra le molte cose che proponiamo oggi nelle nostre pagine culturali della domenica, c'è anche un film dedicato a un altro matematico di cui scrivi proprio tu, un matematico inglese che è stato molto importante non tanto per la ricerca o non solo per la ricerca, ma anche per gli esiti del secondo conflitto mondiale. Dici, parlacene tu stesso, Armando. Sì, si tratta di Alan Turing, che è un grandissimo logico, un grandissimo matematico. La sua è una storia anche tragica, ma perché è morto in realtà giovanissimo, a 41 anni, si dice addirittura suicidato in seguito a una serie di questioni che riguardavano sia la sicurezza nazionale, perché lui appunto aveva lavorato nei servizi segreti durante la seconda guerra mondiale, e sia perché era un po' perseguitato ed aveva subito anche un processo per omosessualità e condannato appunto alla castrazione chimica. Insomma, la sua morte rimane misteriosa, ma diciamo che il Turing è diventato poi un mito a partire dal, insomma, non subito, perché le sue grandi imprese durante la seconda guerra mondiale, e qui c'è la straordinaria storia raccontata dal film The Imitation Game, che gioca un po' sulle competenze e anche su questa vicenda appunto personale molto importante, ed è una storia eccezionale perché lui è stato il protagonista della decrittazione del codice della macchina Enigma, che veniva usata dai nazisti per tutte le comunicazioni e soprattutto per le comunicazioni che determinavano poi gli attacchi e quindi anche spesso sulla popolazione civile, uccidendo migliaia e migliaia e poi anche milioni di persone. Si calcola che grazie a questa grande, ci sembrava veramente un enigma impossibile da risolvere, perché le capacità di calcolo erano pochissime, grazie alla genialità logica di Turing, che lavorò appunto per i servizi segreti a questa missione, si dice, lo dice molto chiaramente il film, sono state salvate 14 milioni di persone, la guerra è finita 2 anni prima, sono tutti eventi che erano abbastanza sconosciuti fino a pochi anni fa. E la percezione pubblica di questa straordinaria storia, che adesso il film contribuirà a far conoscere credo a tantissime persone, è iniziata con un libro da cui prende spunto appunto il film, che è il libro di Andrew Hodges, pubblicato da Bonatti Boringhieri in Italia, che in realtà in originale è stato pubblicato nell'83, poi via via aggiornato fino all'edizione ultima, che è quella del 2012, per il centenario della nascita di Alan Turing. Insomma, un grande genio che è all'origine anche non solo appunto di queste straordinarie capacità di decrittazione, ma anche di un progetto diverso, quella che lui chiamava la macchina universale, ribattezzata appunto la macchina di Turing, che non è altro che il computer che noi usiamo il computer multifunzioni, che noi usiamo ormai quotidianamente e che verrà realizzato poi sulla base dell'idea di Turing da von Neumann nel 1945. Quindi un personaggio, sì, insomma, di un'importanza capitale, di cui purtroppo la nostra cultura, spesso non abbastanza attenta a questi aspetti, appunto la logica, la matematica e la possibilità che proprio la logica pura, la matematica pura possono influire così pesantemente sulla storia, siamo sempre poco attenti a queste cose. Questo film, che non è perfetto, è un film molto bello in realtà, con una interpretazione eccezionale da parte di Cumberbatch, che è un attore notevolissimo inglese che probabilmente vincerà l'Oscar per questo film. Il film è molto bello, ci sono, io sottolineo nel mio articolo, cerco di fare un'operazione proprio di informazione e di dettaglio su che cosa dobbiamo credere, cosa non dobbiamo credere, proprio sulle questioni più tecniche, insomma, anche sulle questioni. Il film, per esempio, fa per esigenze narrative che sono peraltro comprensibilissime, però spesso sovrappone piani diversi che però il lettore, magari andandosi a leggere alcuni libri che io segnalo poi oltre allo stesso libro di oggi, dovrebbe invece tenere ben presenti. Per esempio, il film è un po' ambiguo sul fatto che la macchina che lui costruisce durante la decrittazione corrisponde al computer, no? Al progetto del computer. In realtà si tratta di due progetti, di due questioni completamente diverse, ma il film non va romanza, molto per il sottile. Certo, beh. Romanza, e fa però con degli elementi anche molto divertenti, perché un'altra cosa di Turing importante è il famoso test, no? Per distinguere se abbiamo a che fare, quando facciamo delle domande, con un computer o con una persona, e c'è un interrogatorio di tutto inventato che però, appunto, in cui Turing stesso è come se si comportasse come un computer, un esperimento narrativo molto intelligente, insomma, che funziona. Insomma, il film funziona molto bene, è molto bello, ci dà un'idea anche molto precisa di chi era, di che carattere aveva e allora dell'ingiustizia che ha subito. Con queste, se uno si informa anche un po' di più su come funzionano bene queste cose, ha un quadro completo, insomma, di che cosa. E Turing, Obama lo ha definito, insieme a Darwin e a Newton, il massimo scienziato inglese, ecco, insomma, per dire che infatti, a qualcosa di vicino, sì, ad Einstein, diciamo, ecco, che non lontani. È un consiglio, il tuo articolo poi è un consiglio di visione per The Imitation Game, che è questo film sulla vita di Turing, ma anche un consiglio ad approfondire la figura con l'ausilio, appunto, dei libri che vengono segnalati su oggi sul Sole 24 Ore, sulle pagine della domenica del Sole 24 Ore. Cito, ma abbiamo un minuto, un contributo di Andrea Grignolio fuori dal coro, in qualche modo contro l'ipotesi di inserire la tutela degli animali in Costituzione. Dice Grignolio, sostanzialmente non ce n'è alcun bisogno, abbiamo delle norme che funzionano per la tutela degli animali, non abbiamo bisogno di questa modifica costituzionale. E poi, ma veramente pesco a casaccio, avrei molte altre cose da dire, un lavoro di Ermanno Cavazzoni, un racconto dedicato al comunismo, non so se su questo in 30 secondi vuoi dirci qualcosa tu. Ma intanto consiglio vivamente di leggerlo, perché è uno spasso assoluto, conseguenze del comunismo è il titolo che gli abbiamo dato, perché Cavazzoni fa tutta una lunga analisi vera e propria, derivata dal prendere sul serio le uniche cose che Marx dice di fatto su come cavolo dovrebbe essere questo comunismo che tanto ci ha fatto penare per tutto il XX secolo. E in pratica nei manoscritti economico-filosofici si legge tanto che nel comunismo chi vorrà pescare andrà a pescare, chi vorrà dipingere andrà in campagna a dipingere, punto, non dice altro. Però sulla base di questo, Ermanno Cavazzoni, grande scrittore molto surreale, costruisce con delle conseguenze assolutamente logiche, diciamo, tutti degli scenari e delle società, e spiega anche perché ci sono state tanti problemi nel tentare di realizzare altre forme di comunismo. Certo. Grazie. Grazie a voi, grazie Armando, e buona domenica. Buona domenica a tutti. Un grazie ad Armando Mazzarenti, un grazie a Mauro Meazza per la sua lettura dei quotidiani di oggi. Adesso è il momento del GR, poi siamo qua in diretta con Si può fare, 800 24 00 24, come sempre il numero verde per giocare, per raccontarci la vostra Italia migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buona domenica da Federico Taddia, questo è Si può fare. Alessio Maurizio e Carlo Gabardini, padroni di casa, oggi in vacanza, io in sostituzione, due ore per raccontare l'Italia migliore, l'Italia anche piccola, l'Italia nascosta, ma quell'Italia che fa rumore, che ci piace raccontare, tante piccole storie e tante grandi storie ci accompagneranno per questo paio d'ore. Il numero verde è l'800 24 00 24, segnatevelo perché è l'ingresso a Si può fare, con le vostre storie, le vostre parole, i vostri commenti. Se avete storie relative agli argomenti che andiamo a toccare, siamo qua pronti ad ascoltarle. E non solo, lo sapete, la domenica si gioca con la notizia della settimana, non la più importante, non la più grande, non la più bella, o forse sì, chissà, è una notizia che noi scegliamo, vi diamo qualche indizio in queste due ore e aspettiamo la risposta corretta. Da voi in palio due biglietti per la mostra di Chagall qui a Milano. Parto con il primo indizio, come da tradizione. Il primo indizio è assente per malattia. Questo è il primo indizio dell'identikit, della notizia che abbiamo scelta per questa settimana. Assente per malattia. 800 24 00 24, il numero verde per giocare con Si può fare. Ma si può fare oggi è anche musica dal vivo. But you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for night when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. La voce che state ascoltando è quella di Soltanto. La chitarra non è più Cristina, ma è Caterina, la sorella minore. È un basker, in questi giorni suona qui a Milano, è un amico, ci siamo già, l'abbiamo già avuto ospite all'altra Europa, ma essendo che era qui in Italia in questi giorni l'ho convocato. Ciao. Grazie. Ciao, benvenuto, bentornato. Buongiorno a tutti. Cosa vuol dire fare il basker nel 2015? Fare il basket 2015 significa tante cose. Per me, diciamo, prima di tutto, quando ho cominciato 5 anni fa, la scelta più importante della mia vita per cercare la felicità. E oggi, appunto, invece, dopo 5 anni, significa anche una alternativa reale possibile per vivere di musica e, come dire, della propria passione, viaggiando tanto in Italia, in Europa e... Uh-huh. E viaggiando, e non solo, anche credo mantenendo fede alla propria autonomia, alla propria indipendenza artistica. Certo. e non solo, con sacrifici, con fatica. E la domanda che ti faccio ogni volta che ti incontro: si mangia facendo il basker? Diciamo che si rinuncia a tante cose, ma ci si rinuncia volentieri, e con alti e bassi ci si campa, ecco, sì. E si può fare ancora il basker, si può vivere di musica, della propria musica, del proprio camminare, del proprio muoversi, con regole anche nuove e a volte bizzarre, vero? Perché c'è tutto un regolamento che, sì, che vi accompagna. So che, anzi, tu forse sei anche uno degli animatori qui a Milano. Sì, sono presidente dell'Associazione Artisti di Strada e ho lavorato con il Comune e la Federazione Nazionale, la FNAS, Federazione Nazionale Artisti di Strada, per, diciamo così, una stesura di un regolamento il più accessibile possibile. Infatti Milano è la prima città in Italia, in Europa, a consentire la prenotazione online tramite una piattaforma, appunto, che si chiama Strada Aperta, stradaaperta.it. Permette, appunto, a qualsiasi persona, qualsiasi artista che si vuole sperimentare, appunto, nel basking, nel fare musica o arte in strada, di prenotare, appunto, una postazione tramite internet, e quindi, insomma, rende accessibile la cosa anche a chi non vive a Milano e magari ci passa per qualche giorno. Mm-hmm. Tu suoni e giri e viaggi tanto in Europa, è molto diversa la strada italiana dalle strade europee, è diversa l'accoglienza, è diverso il pubblico, sono diverse anche le regole. regole? Ma allora, per quanto riguarda le regole, diciamo, questa della piattaforma è sicuramente un'avanguardia, ma come dire, come tutte le avanguardie, poi ha bisogno anche di un tempo di assestazione, perché comunque stiamo riscontrando comunque diverse problematiche relative a controlli, il fatto che comunque ci siano così tante esibizioni, così tanti spettacoli, rende poi difficile veramente effettuare i controlli da parte dei vigili. All'estero, diciamo, si punta più su un discorso di qualità, per cui esistono proprio città come le metro di Parigi o di Londra, dove si tengono delle vere e proprie audizioni, cioè come se tu andassi a fare il provino per entrare in un musical, piuttosto che a Parigi, per esempio, mi pare che siano 3 o 4 le audizioni che ci sono all'anno, sì. Per cui ci si prenota, ci si presenta e si fa la propria esibizione. Dopo una settimana ti danno risposta. Come dire, da una parte è anche gratificante per chi fa arte di strada tutto l'anno, e quindi in qualche modo passare un'audizione ti senti anche veramente un professionista, il tuo ruolo, eccetera. Dall'altra, chiaramente, scoraggia un po' chi lo fa in maniera un po' occasionale, saltuare, perché comunque sia devi andare nella città senza sapere se ti prenderanno o meno a fare l'audizione, quindi presuppone che tu abbia del tempo libero e anche dei soldi da investire in un viaggio, quindi ci sono chiaramente pro e contro. Soltanto oggi sarà la colonna sonora di Si può fare. Se anche voi avete storie di basker da raccontare, magari nel vostro passato se non nel vostro presente, perché questo desiderio, questa voglia, questo gioco anche del suonare, del viaggiare, del muoversi, del sentirsi liberi a 360 gradi, è una storia che tanti hanno provato, tanti hanno toccato, tanti hanno sfiorato. 800 24 00 24 per le vostre storie in diretta qui a Si può fare. 349 238 6666 per farlo via SMS. Come i sogni che farai o prenderai a noleggio, quando ti addormenterai con le scarpe sul letto, dentro al replay, con la testa girata un po' in su, da fotografia ci sei anche. E con il replay di Samuele Bersani invece andiamo a scoprire la prima storia di oggi, una storia che parte da uno scatto, da un istante, da un'immagine. È già stata battezzata come la foto del 2015, comunque la foto più rappresentativa di questo anno. Una foto scattata probabilmente senza l'intenzione di diventare la foto dell'anno, una foto che non è bella dal punto di vista estetico, ma è bello quello che racconta, è bello quello che coglie. È bello il messaggio che c'è scritto, e dice questa foto dove un giovane tiene in braccio un'anziana signora, leggendo il testo si scopre che è la sua nonna, e questo è il testo che accompagna la foto. Anche questo è amore, non è stato il 31 dicembre migliore della mia vita forse, ma anche questo fa parte della vita. Una volta mi tenevi tu sulle tue gambe, adesso lo faccio io, nonnina, senza vergogna e senza timore, per ricordare a tutti che la vita va vissuta e va combattuta. È facile scrivere parole su Facebook o altro. Nella vita si deve essere presenti sempre e comunque. Questo è il mio augurio per il 2015, la presenza di qualcuno accanto che ci possa proteggere, confortare, ma anche essere felice e sorridente con noi. Una foto che ha fatto il giro del web, ha ricevuto migliaia di like, di mi piace, migliaia di condivisioni. Una foto che vede protagonista un 28enne di Gioia del Tauro, si chiama Giancarlo Murisciano. E Giancarlo è qua con noi. Ciao Giancarlo, buon anno, buona domenica. Ciao Federico, buongiorno e buongiorno a tutti e auguri di buon anno. Allora, un attimo, un istante, questo caminetto acceso, la tua foto che abbiamo già pubblicato sia sul profilo Twitter mio personale, Federico Taddia, sia su quello di Si può fare, una foto che immagino ti abbia scattato un parente o un amico. Cosa stavi facendo in quel... La foto è stata scattata da mia cugina, alla mia insaputa, io non sapevo che stesse scattando la foto. Niente, nel momento in cui stavano preparando mia nonna per la notte, siccome la nonna non deambula bene, io l'ho presa in braccio il tempo per sistemare il letto, per metterla a letto, e quindi è stata scattata questa foto. E io poi casualmente mi sono ritrovato sul cellulare, perché mia cugina l'aveva scattata con il mio cellulare, e quindi ho deciso di postarla poi su Facebook e scrivere un piccolo messaggio. Mm-hmm. Ma non mi aspettavo tutto questo riscontro. E secondo te qual è stato il motivo di tutto questo riscontro? Quale corda hai toccato, sia con il tuo gesto, quindi quello che stavi facendo, prendere in braccio la tua nonnina di 87 anni, sia con le tue parole, poche, piccole, semplici, che però hanno fatto centro? Forse è proprio la questione dell'invertire i ruoli, cioè nel senso, da piccoli siamo comunque noi ad essere accuditi, sia dai genitori ma più delle volte dei nonni, perché magari i genitori non possono, impegni di lavoro. E poi purtroppo quando si va avanti nell'età, c'è chi fortunatamente arriva a vivere la vita in maniera dignitosa, chi come la nonna e come altre persone non hanno più questa possibilità, e quindi da persone anziane diventano persone bimbe, sono bimbi, quindi secondo me è giusto ricambiare quello che loro hanno fatto per noi. Ti tengo in braccio come facevi tu, questo è il titolo di questa splendida immagine. 800 24 00 24, se anche voi avete già foto dell'anno che volete inviarci, o volete raccontarci, o volete descriverci, oppure potete farlo via Twitter, via Facebook, via SMS 349 238 6666. E Giancarlo, ti ha cambiato qualcosa questo abbraccio collettivo? Migliaia di persone ti hanno visto, migliaia di persone si sono fermate un attimo ad ammirare, a leggere le tue parole, a pensare quello che tu stavi pensando. E cos'è cambiato nel giro di 24 ore, 48 ore nella tua vita? Nella mia vita quotidiana non è cambiato nulla, comunque io resto sempre quello che sono. Però mi è piaciuto molto il riscontro che ho avuto, più che altro le parole. Perché come dicevi tu, non è che la foto dal punto di vista estetico è una bella foto, si vede che non è una foto preparata. Però mi ha fatto piacere che ci sono state tante persone che comunque la pensano come me, e quindi è bello riscoprire che ancora c'è questa umanità. Giancarlo Murisciano, il profilo su Facebook, la sua foto, la nonnina, questo è il migliore augurio di buon 2005, che facciamo nostro il tuo augurio, Giancarlo, di tenerci in braccio, di stare accanto, e come dei megafoni qui a Si Può Fare lo rilanciamo anche a tutti i nostri ascoltatori. Ciao e grazie, buon anno. Grazie a te Federico, buon anno. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no, no. Con Caparezza riapriamo Si Può Fare, lo sapete, ogni domenica sono ospite con una mia rubrica all'interno di Si Può Fare, accolto da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini per presentarvi progetti di crowdfunding per rilanciare, per essere una sorta di vetrina del Portobello 2.0, no? La missione tante formichine, se tanti danno poco si può comunque costruire tanto. Oggi parliamo di crowdfunding, tra l'altro tu hai prodotto il tuo primo CD interamente col crowdfunding, vero? Sì, esatto, sì. Mi era venuta questa idea ancora prima di conoscere proprio, come dire, questo tipo di possibilità, nel senso che mi immaginavo, facendo appunto io la vita da basket, da artista di strada, vivo di quello che raccolgo quando apro la custodia. Pensavo proprio, per produrre il primo disco, di aprire questa custodia, farla passare, diciamo, dalla strada alla rete. E, diciamo, questo pensiero e questa cosa ha coinciso poi con l'apertura di una piattaforma di crowdfunding dedicata interamente ai progetti musicali, che era Musicriser, nell'estate di 2 anni fa. E quindi appunto a settembre, quando la piattaforma è andata online, ho lanciato il mio progetto e abbiamo raccolto poco più di 10.000 euro in 2 mesi, e il disco Le Chiavi di Casa Mia si è potuto fare. si può fare, insomma, il crowdfunding è questo, la possibilità di finanziare dei sogni, e ha tante facce il discorso del crowdfunding, c'è quello del finanziamento, c'è quello della partecipazione, perché non è semplice beneficenza, non è una colletta il crowdfunding, è altro, tu entri in contatto col progetto, tu hai possibilità, hai qualcosa in cambio anche, che a volte è un solo un grazie, altre volte è qualcosa di più, comunque hai la possibilità di mantenere contatti diretti con il protagonista. E poi c'è anche l'altra faccia, tu hai citato il termine piattaforma, chi costruisce la possibilità che tutto ciò possa avvenire. E oggi parlo di crowdfunding parlandovi proprio di una di queste esperienze, una piattaforma ideata da un gruppo di giovanissime under 30 bolognese che hanno dato vita alla piattaforma Idea Ginger, www.ideaginger.it. Con noi c'è Virginia Crolfi, una delle protagoniste. Ciao Virginia. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, benvenuta a Si Buongiorno. Può Fare. Sono tante ormai le piattaforme attive in Italia, però raccontaci la tua storia. Intanto, qual è la definizione di piattaforma per spiegare anche ai non addetti ai lavori di cosa si tratti? Sì, allora, piattaforma di crowdfunding è un sito sul quale vengono pubblicati i progetti che richiedono ognuno un budget diverso per essere realizzato. Può essere, appunto, come si diceva prima, un CD, quindi una persona che vuole produrre un gruppo musicale il proprio CD, oppure un festival che vuole realizzare una nuova edizione ancora più al fulmicotone, sì. Oppure potrebbe essere, come abbiamo noi adesso, una scuola per l'infanzia che vuole costruire uno scivolo per il giardino dove giocano i bambini. Ecco, io vado su questo sito, trovo tutti questi progetti, vedo quanto ogni progetto ha bisogno e quanto alla fine io posso donare, faccio la mia donazione sempre attraverso la piattaforma e grazie alla piattaforma posso aiutare con il mio piccolo contributo il raggiungimento di questi piccoli obiettivi. Questa è una piattaforma, e perché 5 ragazze, 5 under 30 si mettono insieme e decidono di investire su una piattaforma di crowdfunding? Beh, l'idea ci è venuta nel 2012, poi la piattaforma l'abbiamo realizzata nel 2013 perché eravamo a conoscenza del crowdfunding, ma all'epoca, beh, anche adesso, ma soprattutto all'epoca in Italia stentava un po'. E così abbiamo detto, ma quale potrebbe essere la soluzione? E ci è venuto in mente che forse in un ambito italiano la soluzione era fare una piattaforma regionale, infatti Ginger è legata a progetti dell'Emilia-Romagna, in modo tale che noi potessimo unire sia la piattaforma, quindi l'elemento online, ha una forte attività offline di contatti, di eventi, di aiuto stesso che possiamo offrire alle persone che hanno queste idee e vogliono realizzarle. Quindi la nostra idea è stata, non rimaniamo soltanto sulla rete, anche perché di modelli così ce ne sono tantissimi, già il più celebre Kickstarter americano, ma scendiamo piuttosto nel territorio e facciamo sì che ognuno possa pian piano capire le potenzialità di questo strumento. Uno scivolo all'aria aperta per la scuola dell'infanzia Marconi, un proiettore per Piacenza, per un'associazione culturale, la giornata mondiale dell'errore che cerca finanziamenti per poter rilanciare questa manifestazione, un concordo di cinematica, il microcinema, sono alcuni dei titoli presenti sull'Idea Ginger. Per ognuno ovviamente l'obiettivo di raccolta, i giorni mancanti, quello che viene dato in cambio, che anche lì la creatività per fortuna è tanta, e poi altre bizzarrie, perché a volte anche sembra un po' bizzarro la scelta del crowdfunding, come per esempio come per sposarsi. Francesca, hai deciso di sposarti col crowdfunding? Francesca? Pronto? Eccoti, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, ciao. Tu hai scelto il crowdfunding, tu e il tuo compagno, per raccogliere i fondi necessari alle nozze? Sì, decisamente sì. Abbiamo scelto questa strada. Come funziona? Cioè, un matrimonio collettivo diventa un evento social. Cosa c'è alla base? C'è alla base un po' di voglia di ritorno a ciò che era il matrimonio millenni fa, possiamo dire, era un evento della comunità, e un po' il fatto che crediamo molto nella comunità dove viviamo e nella loro capacità di supporto. Ma e l'idea è quella di fare una lista di nozze online o è qualcosa d'altro? La lista di nozze online è rivolta a tutti i nostri amici, parenti, e quant'altro. E c'è la possibilità di partecipare come utente esterno e di supportare un nostro progetto e il nostro sogno come una qualunque campagna di crowdfunding, ecco. Uh-huh. C'è l'idea di mettere il matrimonio in piazza. Nel senso bello del termine. Ha detto sì, è il nome del progetto, 8.000 più o meno l'obiettivo da raggiungere, sì. Mancano ancora 120 giorni perché avete scelto, mi sembra, un giorno di maggio per sposarvi. Il 9 maggio come data, quindi c'è ancora un po' di tempo. E in cambio cosa avete scelto di dare? In cambio abbiamo scelto di dare tante cose, dal video di ringraziamento fino alla possibilità di avere un sito creato da Giacomo, che è un programmatore, o un pezzo della mia collezione di foulard o borse, perché io ho un'azienda di moda, o la nostra bomboniera, che è un vaso di vetro con all'interno un seme a sorpresa per far crescere la propria piantina. Tante cose, ecco. Uh-huh. Con 200 euro si è anche invitati al matrimonio, leggevo. Sì, vero? Si è anche invitati al matrimonio. Quindi rischi di trovarsi tanti sconosciuti che però diventano conosciuti in quel momento, perché appunto amici reali si fondono con gli amici virtuali e il matrimonio diventa veramente un momento social. Virginia, ma questa storia è rappresentativa, cioè, vale tutto col crowdfunding? Esatto, molto spesso ci viene chiesto, anzi ci vengono spesso anche fatte le domande, per esempio su questioni etiche, ma insomma, ma questo vale, ma posso raccogliere fondi per questo o per quest'altro? Insomma, diciamo che noi lo spieghiamo molto semplicemente come se, cioè, il crowdfunding è fondamentalmente uno strumento, come se fosse un coltello. Cioè, io con il coltello ci posso tagliare il pane, ma ci posso anche ammazzare mia moglie. Quindi è inutile anche magari porsi domande su ma vale o no. Certo, vale tutto, perché se è, ovviamente deve essere legale, però se la gente è disposta a darmi un contributo per realizzare il mio piccolo sogno, il mio obiettivo, certo, anzi non c'è niente di più bello da un certo punto di vista di vedere che tante persone possono condividere la mia idea, e se è folle la condividono ancora meglio. Certo, e c'è una telefonata, Clara da Genova, che è appunto relativa al crowdfunding, sentiamo un po'. Ciao Clara, benvenuta. Buongiorno, ciao, salve. Ciao. Volevo segnalare un'iniziativa italiana che è nata a Milano, che è la terza piattaforma italiana che ha avuto l'autorizzazione della Consob, che si chiama smartab.eu. Sì. E attualmente sostiene l'iniziativa di Liberos, che appoggia e incentiva l'editoria libera, che è nata in Sardegna. Certo. E stanno cercando di raccogliere quote anche nel resto d'Italia. E si diventa impactor, e uno dei primi impactor, che il termine fa un po' è carino, ma comunque l'investitore, è l'Università dello Ulm, che appoggiandosi con un incubatore di startup alla piattaforma di crowdfunding sta cercando di creare anche da noi quello che abbiamo visto al report di 15 giorni fa. Uh-huh. Di queste università americane che hanno milioni di dollari di bilancio e che sostengono le idee dei ragazzi. Sì, sì. E tra l'altro anche l'Università di Pavia, credo la prima in Italia, sì, ha lanciato adesso una bellissima campagna di crowdfunding proprio per finanziare le ricerche, dove conosci anche nome e faccia del ricercatore e puoi seguire giorno per giorno quello che accade nei laboratori. Grazie Clara per la tua segnalazione. Sì. E Virgilia, tornando a Idea Ginger, parlavamo di piccole storie, vedi il matrimonio di Francesca, una grande storia per lei, però è una piccola storia dal punto di vista personale, ma ci sono anche grandi storie, vedi il progetto legato al restauro della Basilica di San Luca che avete lanciato voi come piattaforma e che sta ottenendo un ottimo successo. Esatto, sempre a proposito di piattaforma ci siamo resi conto che dato che ci riusciva particolarmente bene questo legame col territorio e costruire piattaforme semplici e veloci in cui la gente potesse sentirsi a proprio agio e perdonare, abbiamo in collaborazione col comune di Bologna abbiamo realizzato il progetto Un Passo per San Luca, che voleva dire un sito a sé stante, unpassopersanluca.it, grazie al quale veniva raccontata la storia del portico di San Luca, che è il portico più lungo al mondo, sono quasi 4 km ininterrotti di porticato, che essendo così lungo e soprattutto così antico, perché risale al XVII secolo, ha costante bisogno di restauro. E quindi il comune di Bologna ha detto bene, io quest'anno 2013, perché poi 2014 si è svolto l'anno scorso, decido di raccogliere i fondi grazie al crowdfunding. L'obiettivo era 300.000 euro, abbiamo raccolto quasi 340.000 euro, quindi 40.000 euro in più rispetto a quello che avevamo immaginato, con una partecipazione da parte dei bolognesi incredibile. Più di 7.000 bolognesi hanno donato, ma bolognesi, associazioni culturali, imprese del territorio. Ciò che veramente siamo riuscite a fare, ma soprattutto grazie alla partecipazione dei cittadini e non solo, è stata proprio attivare un mecenatismo dal basso come non era mai stato realizzato in Italia prima per un bene culturale. Certo, questo è il crowdfunding, ideaginger.it, grazie davvero a Virginia Carolfi. Ha detto sì, è il nome invece del progetto che vede protagonista Francesca e Giacomo per il loro matrimonio. Francesca, in bocca al lupo per la vostra avventura, ti dedichiamo una canzone, c'è qui soltanto, insomma è il nostro regalo di matrimonio, con 120 giorni d'anticipo, ma ci portiamo avanti, visto che il crowdfunding anche questo richiede progettualità. Cos'hai scelto soltanto? Suono una canzone mia, si chiama Le chiavi di casa mia, che è il titolo anche del CD realizzato grazie al crowdfunding. Lo so che ti manca il mio caffè, lo so che hai riacceso la TV. Griderò al vento. Lui è soltanto, questo è Si può fare. Torniamo subito dopo le informazioni per chi sta viaggiando. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta. Stiamo anche giocando, quella è la notizia della settimana che abbiamo scelto, vi ho dato il primo indizio, per ora che è assente per malattia. Per individuare la notizia protagonista del nostro gioco in palio, due biglietti per la mostra di Chagall qui a Milano. Prendiamo già un paio di telefonate con tentativi. Aldo da Brescia, ciao Aldo, buona domenica. Benvenuta, Si può fare. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per avermi richiamato. Allora, assente per malattia, qual è secondo te la notizia che abbiamo scelto, la notizia della settimana scelta nel nostro gioco? Purtroppo l'assenteismo dei vigili di Roma. No, è vero, insomma, è un gioco, quindi si cerca anche di dare l'indizio. Invece non è questa notizia che però ti ha colpito, ti ha fatto arrabbiare, ti ha indignato? Purtroppo sì, perché essendo del privato, sinceramente, vedendo queste cose che succedono nel pubblico, non si è troppo felici. Si vorrebbe un'amministrazione pubblica un po' più efficiente. Vediamo adesso quello che accadrà, insomma, tante polemiche, tante decisioni da prendere, speriamo non sia stato solo una parentesi di cui ci andremo a dimenticare presto. Grazie per aver partecipato a Si può fare. Grazie, ciao Aldo, ciao. Grazie, buona giornata. Andiamo a Milano invece da Rosy. Ciao Rosy, buona domenica. Buongiorno, salve anche a lei. Assente per malattia. Potrebbero essere i Netto Urbini di Napoli, oltre che la polizia locale di Milano. Ah, quindi hai cambiato città e hai cambiato categoria, diciamo, non più i vigili di Roma, sì, ma i Netto Urbini di Napoli. No, non sono loro i protagonisti della notizia che abbiamo scelto per questa settimana. Sarebbe stato troppo semplice. è il bello del gioco anche questo. Grazie. Certo. Ciao Rosy. Beh, allora vi do un secondo indizio, dai. Assente per malattia, il primo indizio. Il secondo indizio è battaglia navale. 800 24 0024 per giocare con noi. E il portavaiscar del tennis, e il parlavale per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E il portavaiscar del tennis, e che aveva due ste buon, era il primo mena via. Un grande Enzo Iannacci, è sempre un piacere sentire la sua voce, i suoi testi, le sue parole, il suo cuore, le sue scarpe de tennis che abbiamo scelto per celebrare un importantissimo anniversario, i 20 anni appunto di Scarpe de Tennis, il mensile della strada, il mensile che racconta le altre diversità, gli altri mondi, le altre realtà, il primo mensile ad aver dato visibilità agli invisibili, che dopo 20 anni si rinnova completamente nei contenuti, nella grafica e non solo. Di tutto questo ne parliamo con il direttore Stefano Lampertico. Ciao Stefano, benvenuto a Si può fare. Ciao, buongiorno, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. blogdetennis.it è il sito. Che cos'è oggi Scarpe de Tennis, Stefano? Scarpe de Tennis oggi è un importante progetto editoriale e insieme un importante progetto sociale che dà lavoro a più di 150 persone in Italia, che sono persone che vivono forme di disagio, vivono forme di emarginazione, che con il giornale, con la vendita del giornale, riescono a riacquistare i diritti di cittadinanza che spesso vengono persi per strada. E insieme a un progetto editoriale che racconta storie che solo noi raccontiamo, che sugli altri media faticano a trovare spazio. Sono le storie della strada, sono le storie di chi ha vissuto momenti di difficoltà, di chi è ripartito, di chi è invisibile, è diventato visibile, e anche le storie di chi ci aiuta a raccontare la strada con la propria penna, con le proprie biografie, con le proprie autobiografie. Stefano, ma si riesce ad andare oltre, nel senso che a non parlarsi addosso, a non farsi leggere solo da chi già è interessato a queste tematiche? Assolutamente, noi cerchiamo proprio di fare questo, cioè cerchiamo di offrire un prodotto che noi speriamo di buona qualità, e un giornale che venga acquistato sia per quello che è, sia per quello che il gesto dell'acquisto comporta. È un po' il mix di tutti gli street magazine del mondo questo, si cerca di abbinare la qualità dell'informazione che viene proposta, la qualità dei contenuti, insieme alla spiegazione del progetto sociale che sta dietro. Scarpe de Tennis lo fa da 20 anni, dal 94, nacque appunto grazie a un'idea di un pubblicitario che provò a replicare l'idea degli street magazine inglesi, soprattutto a Milano, e dal 95 poi approdò in Caritas Ambrosiana, dove l'abbiamo fatto nostro, dove l'abbiamo fatto crescere, dove l'abbiamo espanso anche a livello nazionale. Oggi Scarpe de Tennis è il più importante magazine della strada d'Italia e siamo felici ovviamente di fare questo lavoro da 20 anni. E per questi 20 anni ci sono novità editoriali, nuova veste grafica, firme raffinate, c'è un ottimo Harry De Luca che apre con una rivisitazione narrativa dei 10 comandamenti e anche un'incursione nel mondo dei fumetti. Esattamente, per fare abbiamo rinnovato la grafica perché un po' i giornali ovviamente, un po' come la moda, devono stare al passo con i tempi, anche Scarpe de Tennis cerca di fare questo. Abbiamo rinnovato grafiche e contenuti, cercando appunto di proporre un prodotto sempre più di qualità, e per fare questo abbiamo chiesto per esempio ad alcuni scrittori di raccontarci, e l'idea l'abbiamo avuta prima di Bellini, di raccontarci i 10 comandamenti in chiave moderna. Il primo che ci ha proposto il suo racconto è Harry De Luca, che commenta appunto il comandamento del non rubare, e poi avremo sul prossimo numero Maurizio Maggiani, poi ci sarà Antonella Cilento, ci sarà Caro Figlio, ci sarà Affinati, insomma i grandi scrittori che mettono a disposizione la propria penna appunto per così per proporre anche su un street magazine le loro idee, le loro proposte. Uh-huh. E come dicevi tu, per questo numero è un numero davvero di eccezione, che sta diventando anche un po' un oggetto di culto per i collezionisti del fumetto, perché ospitiamo una storia inedita di Dylan Dog, che Sergio Bonelli editore ci ha regalato, e che è ambientata nel dormitorio per i senza dimora della Caritas di Milano in stazione centrale presso il rifugio Caritas. È una storia di 4 pagine, molto bella, con un taglio anche abbastanza ironico, che è un po' anche la nostra caratteristica, con un taglio leggero. Noi cerchiamo sempre di raccontare storie difficili anche con un taglio leggero, e Dylan Dog è il grande ospite di questo nostro numero. L'amicizia con Dylan Dog, tra Scarlet Tennis e Dylan Dog, dura da 20 anni, già compariva sulla copertina del numero 2 in una sorta di quarto stato con i bisognosi, con i senza dimora, e poi ci ha accompagnato negli appuntamenti più importanti nel numero 100, nel numero 150, e questa volta approda su Scarpo con una storia inedita completa. Questa è Scarpo de Tennis, nasce a Milano, ma come ci ha detto Stefano ci sono redazioni sparse in tutta Italia, e in tutta Italia si può avere occasione di acquistarlo. Viene venduto anche in edicola? Scusa la domanda banale. Assolutamente no, sì, assolutamente no. Viene venduto soltanto da persone sulla strada. Noi ovviamente abbiamo il nostro progetto sociale, che è sostenuto da Caritas Ambrosiana e da Caritas Italiana, che ci ha permesso appunto di espandere il progetto in più di 10 città italiane, da nord a sud, da Milano a Napoli, da Torino a Venezia, a Verona, a Rimini, passando per Firenze e tante altre città. Viene venduto fuori dalle parrocchie, viene venduto per strada. Stiamo attivando ovviamente un po' anche la vendita online, gli abbonamenti online, mantenendo comunque una quota comunque del ricavato per sostenere i progetti per le persone senza dimora, alle quali appunto prepariamo dei percorsi di recupero della propria dignità, dei propri diritti, del proprio essere. www.blogdetennis.it, il portale. Grazie Stefano, complimenti e buon lavoro. Grazie a te Federico, grazie, buona giornata. Abbiamo 30 secondi, 800 24 00 24, andiamo a giocare, andiamo a Bari con Francesco, assente per malattia, battaglia navale, due indizi del nostro gioco. Francesco, ha individuato la notizia della settimana? Buongiorno a tutti, io credo di sì, perché è un assente involontario per malattia, secondo me. Potrebbe essere uno dei due fucilieri italiani. Uno dei due Marò, dice. Quindi uno dei due Marò, sì, che è assente dall'India per malattia in Italia. Non è questa la risposta esatta, però complimenti, perché hai fatto un bel collegamento quasi rodariano, sì, ma non è lui, ahimè. Però mi è sorpreso, già questo è bello. Federico, mi permette di mandare un pensiero di amicizia e fiducia ai due ragazzi? Certo, lo facciamo nostro, ok? Ciao Francesco, buon anno. Complimenti a voi per tutta la programmazione di Radio 24, che è la migliore in assoluto. E adesso appunto abbiamo il GR, a fra poco con Si può fare, ancora in diretta. Un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce, un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci e ombre. Quando sono arrivato sul ciglio di questo immenso buco, mi si è aperta davanti in una frazione di secondo la storia dell'umanità, la storia della costruzione delle piramidi, la torre di Babele, le miniere di Re Salomone. Non immaginavo che stavo per scoprire molto più di un semplice fotografo. Una cosa l'avevo già capita di questo Sebastião Salgado: gli importava davvero della gente. Dopotutto la gente è il sale della terra. Siamo ancora buona domenica da Federico Taddia, questa è Si può fare. Riapriamo la puntata con queste parole. Forse avete avuto l'occasione di farlo, se non vi è accaduto vi consiglio di farlo, di aver visto il film Il sale della terra, realizzato da Wim Wenders, dove ha raccontato la storia di Salgado, del fotografo in grado di narrare, di raccontare per immagini, meglio di chiunque altro, credo, quella che è stata prima l'antropologia, prima l'umanità, le diverse umanità che punteggiano il nostro pianeta. E poi in questi ultimi anni si è dedicato in gran parte a immortalare la terra, la natura. E Il sale della terra racconta tutto questo, racconta anche un progetto parallelo che personalmente non conoscevo e mi ha particolarmente stupito, che è quello dell'Istituto Terra. E c'è questo progetto di riforestazione, e non solo, messo in piedi da Salgado insieme alla moglie, questa organizzazione privata senza fini di lucro fondata nel 1998 proprio per dare un un altro futuro tangibile al pianeta Terra. E di tutto questo ne parliamo con il referente in Italia dell'Istituto Terra. Diamo il benvenuto a Paolo Scinto, economista e ambasciatore di fatto di Salgado in Europa. Ciao Paolo, benvenuto a Buongiorno. Si può fare. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Federico, a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, massima invidia intanto da parte mia, perché credo tu insomma conosca personalmente Salgado e abbia occasione di frequentarlo, e già questo mi sembra sì, è una fortuna anche per me, sai, per il gioco dei sei gradi di separazione, quasi come poter interagire con Salgado, interagire con te. No, non ti aspettare tanto. Paolo, che cos'è l'Istituto Terra? Dunque, l'Istituto Terra appunto è un'organizzazione privata senza fini di lucro, potremmo definirla una onlus in Italia, creata appunto dai coniugi Salgado nel 98, come ricordato, proprio come dire, per portare avanti questa idea che loro hanno avuto più di 15 anni fa, un'idea che forse potremmo definire come dire, un candido sogno, no? Di riportare allo stato originario quello che era la terra del padre di Salgado, la fazenda in Brasile, che appunto lo stesso Sebastiano Salgado da bambino, insomma nei primi anni 50, ha visto trasformarsi, no, quel territorio da una ricchissima e rigogliosissima foresta, la foresta atlantica in Brasile, a un, come dire, un appezzamento per l'allevamento estensivo. Questo insomma non è una cosa peculiare della sua fazenda, ma è ciò che è successo 60 anni fa in un vastissimo territorio degli stati, qui stiamo parlando degli stati di Minas Gerais e Spirito Santo, cioè nel Brasile del sud-ovest, diciamo tra Rio e Bahia, un pochino più all'interno, per dare delle coordinate facili per l'Italia. Quindi questo istituto nasce appunto quando loro si rendono conto che per portare avanti quel sogno c'era bisogno di un'organizzazione, e questo sogno corrisponde di fatto non tanto, quindi l'attività principale appunto è la riforestazione, no? Siamo partiti sì. da, come in tantissime aree del pianeta, non solo del Brasile, appunto lo sviluppo, no? qualche decennio fa era, come dire, immaginato come qualche cosa in contrasto con la natura, nel senso, anzi la natura era di contrasto allo sviluppo, quindi una foresta era un'area più o meno inutile, serviva solo per raccogliere della legna, per fare su legna, e in qualche modo contrastava con l'idea di allevamenti estensivi, eccetera eccetera. Ora, ritornare a una foresta da una situazione in cui c'è una desertificazione in atto, perché ahimè, come in molti sanno, sta avvenendo anche in Amazzonia in questi ultimi decenni, quella terra che è quindi così rigogliosa quando c'è in presenza di una foresta non lo è più quando viene disboscata senza raziocinio. E quindi lui si è trovato davanti fine 97, dopo, tu hai ricordato il film, dopo essere tornato all'ultimo viaggio in Ruanda e essere rimasto scioccato, nonostante le tante esperienze fatte precedentemente, da quello che l'umanità in qualche modo aveva realizzato dal punto di vista sociale, o appunto quello che non aveva realizzato dal punto di vista sociale, economico ed ecologico, e ha provato a, come dire, a dimostrare che i processi distruttivi appunto sullo stesso ambiente in cui viviamo, messi in opera da questa umanità un po' distratta, non troppo conscia e spesso un po' troppo avida, potevano essere fermati e invertiti. Quindi la riforestazione che portiamo in atto noi non è tanto la riforestazione di una parte, di un territorio per un ospizio oppure per una come dire, volontà di avere un'area bella, protetta, delimitata, ma proprio di studiare come invertire questi processi con un approccio anche molto tecnico e scientifico, cioè sì, biologico. Infatti questo nel film viene ben raccontato. Stiamo parlando di un'area più o meno di 700 ettari, diventata riserva privata del patrimonio naturale. È impressionante, nel senso che in 15 anni, che comunque per è un tempo relativamente breve, e davvero dalla terra arida si è ritornati ad avere la foresta. Sì, è impressionante anche per me, guarda, anche sul sito dell'Istituto Terra c'è un'introduzione che fa vedere degli scatti fatti per altri individui dallo stesso Salgado, di una stessa area, e come si è trasformata nel tempo. È veramente è impressionante, hai usato la parola giusta. Quello che forse viene, diciamo, nel film è raccontato in una maniera un po', cioè si vola un po' alti, giustamente, perché non era quello il contesto per dare dati e dettagli sul progetto, no? Però in effetti quei 700 ettari sono l'area che corrisponde alla fazenda del padre, sì. Che vista dall'Italia sembra un latifondo di quelli ottocenteschi, in realtà è un taglio medio in Brasile, soprattutto in quell'area che era un'area di espansione negli anni 50, era un po' un far west, diciamo, e quindi non è un'area, non era che erano persone particolarmente benestanti, proprietari terrieri, chissà di quale, è un appezzamento medio. Quell'area lì è diventata il laboratorio in cui sono state sperimentate le tecniche di riforestazione, partendo appunto da alcune aree, erano proprio, diciamo, un processo di erosione incredibile, sembra di vedere i Calanchi, no? È un'area collinare un po', sì. Collinare un po' simile alla Bassa Toscana, facendo per conto all'Umbria. Dopo 50 anni, insomma, di non gestione del territorio, le stesse attività produttive che avevano, come dire, che erano state la causa del disboscamento, iniziavano ad entrare in una crisi, di produttività, perché appunto iniziava a mancare l'acqua, tagliando tutti gli alberi, ovviamente, i terreni fertili, diciamo, non c'era più una copertura dell'humus, della parte superiore del terreno, per cui appunto è iniziato un processo erosivo e quindi desertificazione su larga scala, portando quindi iniziando a portare una crisi economica e quindi anche sociale. Quindi, diciamo, di quei 700 ettari che tu hai citato sono l'area dell'ex fazenda del padre, che lui ha comprato dalle sorelle, ha dato in comodato d'uso gratuito per 100 anni all'istituto che ha creato, e lì si sono sperimentate varie tecniche appunto di riforestazione, che vogliono essere a basso costo da una parte, perché sennò non sarebbero replicabili, e corrette dal punto di vista ecologico e della biodiversità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ancora si può fare, ancora in diretta con Paolo Scinto, ambasciatore in Europa dell'Istituto Terra di Salgado, dove stiamo così scoprendo qualcosa di più di questo progetto che, vi ripeto, io ho conosciuto vedendo il film Il sale della terra, dove si racconta tutta l'attività fotografica e artistica di Salgado parallelamente a questa invece iniziativa ecologica nel suo Brasile. Qual è la finalità ultima, Paolo, nel senso che è un progetto in espansione, un progetto in crescita, un progetto di riforestazione, ma non solo, anche di ricerca, anche di formazione, come ci hai detto? Sì, assolutamente sì. Beh, appunto, come dicevamo prima, quei 700 ettari sono l'area dove sono state sperimentate queste tecniche, però l'idea fin da subito è stato quello di trovare una metodologia per ricostituire una foresta. Faccio un piccolo inciso: la foresta atlantica è molto poco nota fuori dal Brasile, ma è un bioma, cioè un insieme di ecosistemi forse più importante della stessa Amazzonia in Brasile, perché era la foresta che fino al 1500, fino alla colonizzazione, ricopriva tutta la fascia costiera del Brasile, per un'area che è 3-4, più di 4 volte l'Italia, quindi insomma stiamo parlando di un bioma importante. Sì. Ovviamente essendo sulla fascia costiera è stata la prima foresta a essere stata distrutta per fare spazio appunto alle piantagioni, canna da zucchero e alle altre attività umane portate avanti dal 500 in poi. Ne rimane il 6-7%, quindi anche uno dei biomi più minacciati al mondo, ed è importante perché è in quell'area che vivono il 70% della popolazione brasiliana. Tutte le grandi città, quasi tutte, sono in quella fascia, da San Paolo, Rio, Bahia e via dicendo. Quindi ha una importanza fondamentale per tutte le attività umane di gran parte del Brasile. Ecco, questo piccolo inciso, perché fuori da Brasile si conosce poco. Quindi l'idea era di sperimentare nell'area protetta, in quella che è diventata l'area protetta, la prima area protetta senza avere ancora copertura forestale, sì, in Brasile, e espandere, no, queste tecniche il più possibile, diffonderle in modo che possono diventare comunque esperienze replicabili, strumenti concreti da poter esportare. Assolutamente sì, in altre zone. Tu parlavi della formazione, è un altro asse, no, di sviluppo del nostro programma generale. Noi abbiamo creato in questi 15 anni e passa prima un centro di educazione e recupero ambientale per iniziare a fare della formazione e sensibilizzazione, andando a cerchi concentrici, partendo appunto da quell'area, cerchi concentrici, quell'area abitata, cioè, nel senso che l'area protetta è limitrofa a un, sì, grande paese di 25.000 abitanti, insomma non siamo sperduti in Amazzonia. Quindi un'area molto abitata, un bacino fluviale molto importante dal punto di vista anche economico. Ora, l'espansione si può fare solo e a condizione noi non possiamo riforestare né tutto il Brasile, neanche tutto lo stato di Minas Gerais e neanche tutto quel bacino idrografico, ovviamente con le nostre forze da soli. Quindi dobbiamo per forza allearci con qualcuno che poi faccia questo lavoro sulla propria terra e sappia come mantenere almeno per i primi 2-3 anni le piante che messe a dimora, perché sennò i processi di riforestazione non funzionano. Infatti, semplicemente. Anche nel sito, insomma, ci sono frammenti di racconti di Salgado che dice le delusioni anche nel vedere le prime piante morire dopo pochi mesi. Certo. Allora, istitutoterra.org è il sito ufficiale per conoscere nel dettaglio il programma e il progetto. Paolo, grazie davvero per averci dato una assaggio di questo bellissimo lavoro. Sì. Salgado in queste settimane dove sta lavorando? Dov'è? Ci puoi svelare qualche retroscena? Nell'ultimo mese ha girato per vari paesi dell'Asia. Adesso in questi giorni dovrebbe ritornare in Brasile, però sai, la sua agenda è abbastanza complicata anche per me, che ho contatti frequenti, perché tra questo, diciamo, lavoro qui che lo prende molto e il fatto che ci siano in contemporanea nel mondo 4-5 grosse mostre su Genesi, cioè l'ultimo lavoro progetto fotografico è passato anche da Milano e, certo, da Roma nell'ultimo anno, lo fa girare un po' come una trottola, lui e Alledia Salgado, che è la sua compagna di vita e che appunto ha dato un impulso notevole anche e soprattutto alla costituzione dell'Istituto Terra e quindi alla realizzazione di quello che appunto che era un sogno. Adesso stiamo già nella fase 2 della ricerca, la fase 1 è matura, stiamo espandendo, ci abbiamo piantato quasi 5 milioni di piante, che è un numero enorme, e stiamo già sulla fase 2, che è quello di affinare la ricerca con delle specie climax, ora non vado nel dettaglio, ma sono quelle che si presenti quando una foresta è matura e poi può, come dire, andare avanti da sola perché e consolidarsi, certo. Grazie davvero Paolo, complimenti, buon lavoro. Ciao. Questo si può fare, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Abbiamo un gioco, la notizia che abbiamo scelto come notizia della settimana, due gli indizi dati fino ad ora: assente per malattia il primo, battaglia navale il secondo indizio, in palio due biglietti per la mostra di Chagall qui a Milano. Da Milano appunto ci chiama Morena. Ciao Morena, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Buon anno. Hai individuato quella che potrebbe essere la notizia della settimana? Ma secondo me, non so della settimana, ma comunque secondo me Angelina Jolie, nella presentazione del film, di cui non ricordo il nome, ma credo sia un broker o qualcosa del genere. Sì. E perché era assente per malattia, vista la varicella che evidentemente ha preso dai figli. Adesso ti confesso che non conoscevo questo dettaglio, neanche quello della varicella, devo aver sbagliato giorno. Però no, non è questa notizia della settimana, ma me la segno, insomma, mi ero perso qualcosa. Tanta roba, esatto. Ciao Morena, grazie, buon anno. Grazie a voi, buon anno. Andiamo invece a Torino da Angela. Ciao Angela. Angela è caduta, ok. Angela è caduta per il gioco. 800 24 00 24. Vi do il terzo indizio per giocare. Il terzo indizio è pedale. Iniziano ad essere tre indizi, dai, è facile. Assente per malattia, battaglia navale e pedale, il terzo indizio per giocare con noi. Qui con me in studio c'è soltanto il basker milanese, ma che gira l'Europa. In questi giorni sei in Piazza della Scala, è lì il giusto? Sì, sì. Questo pomeriggio tra le 6 e le 8 e anche domani. E poi l'Epifania invece saremo con Giacomo, il mio violoncellista, in Corso Vittorio Emanuele dall'1 alle 4. Vai, dacci un assaggio, un altro pezzo preso al tuo CD, soltanto Le chiavi di casa mia, realizzato interamente col crowdfunding. Cosa ci proponi? È un pezzettino della canzone Dove sei. Dove sei? Perfetto, e dopo ci sarà con noi Mario Calabresi, insieme parleremo del suo nuovo libro. Fare la propria musica, staccarsi dalle logiche di mercato, combattere a modo proprio, per esempio, la perversione dei talent, che so, mai parteciperesti a X Factor, vero soltanto? No, no. E non solo perché non ti prende, non è quella la direzione. No, cioè, non sono di quelli proprio che fa le crociate contro i talent show, eccetera. Può essere che magari sia la strada per qualcuno, ecco, sicuramente non la mia, quindi semplicemente non faccio il provino, ecco. Preferisci altre strade, appunto la strada quella fatta d'asfalto, quella fatta di gente che passa, mi raccontavi in queste ore di shopping anche, sì. No? Che ti trovi a suonare tra pacchi, sì. Regali, gente un po' che va un po' di fretta, però c'è ancora l'attenzione, si fermano, prestano l'orecchio, l'occhio a quello che, sì, sta ascoltando in un angolo di strada. Sì, sì, sì, devo dire che ieri appunto ho suonato in Corso Vittorio Emanuele a Milano con il mio amico Giacomo Gamberucci al violoncello, e ci siamo appunto messi davanti alla piazzetta San Carlo, e all'inizio appunto c'era questa marea di gente che ancora un po' ci travolgeva, tirava giù la custodia e tutto quanto, perché ieri cominciavano i saldi. Però insomma, dopo un paio di canzoni, quando si è cominciata, è sempre una reazione a catena, nel senso che magari può non succedere nulla per i primi 10 minuti, o a volte anche mezz'ora, però quando comincia, diciamo, qualcuno a staccarsi dalla fiumana e a restare, poi tanti altri si fermano a catena e si genera quel semicerchio, diciamo, che sa tanto per me, almeno di abbraccio collettivo, che è poi la ragione, così, diciamo, quella più primordiale, ecco, che mi tiene legato a vivere di musica di strada. Vivere di musica di strada, vivere dei propri sogni, e vivere dei propri sogni un po' è anche il messaggio del nuovo libro di Mario Calabresi. Si intitola Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. Ciao Mario, benvenuto a Si può fare. Buongiorno. Buongiorno. Buon anno intanto. Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. Un titolo che è già un libro, un titolo che è una frase vera, una frase che hai sentito, credo, pronunciare molte volte nella tua storia, perché è una frase privata. Sì, è una frase che era scritta alla fine di una lettera di una mia zia che con il suo marito, appena sposati, siamo nel 1970, lei ha 27 anni, lui 26, e decidono di dopo la laurea, si stavano specializzando, di andare a aprire un piccolo ospedale in Africa. Si sposano e la loro lista di nozze è tutto ma chiedono agli amici, ai parenti di comprargli tutto il materiale per aprire un piccolo reparto maternità in una zona dell'Uganda completamente sperduta, e apriranno un piccolo ospedale e rimarranno lì per 6 anni a vivere. E appena arrivano lì, il posto, la lettera che scrivono i loro genitori, il posto, come dire, non c'è davvero niente, c'è solo un pozzo dell'acqua, non c'è nulla, e per cui la lettera è abbastanza disastrosa. E però poi si chiude inaspettatamente con questa frase: ma non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. E allora a me questa storia è piaciuta tantissimo ed è venuta in mente, era una storia familiare. È venuta in mente un giorno che ero sul Lago Maggiore a un incontro con i ragazzi dei licei, uh-huh, che mi dicevano: ma cosa possiamo fare, tanto il futuro non c'è, non è esiste, non, nulla dipende da noi, non possiamo fare la differenza. E allora mi è venuta in mente questa storia, sono andato a ricercarla, questo succedeva 3 anni fa, sono andato da questo zio che poi è, purtroppo è mancato poco dopo, per farmi raccontare la loro storia, e poi quest'anno sono tornato in Africa, in quel posto, a Matani, in Uganda, per vedere le conseguenze di una lista di nozze e scoprire che il gesto così un po' idealista, un po' anche pazzo di due ragazzi alla fine dell'università aveva cambiato la vita di centinaia di migliaia di persone, perché oggi un ospedale con quasi 300 posti letto, che fa migliaia di operazioni l'anno, che fa nascere un sacco di bambini. E allora questa storia è il guscio di un libro in cui racconto storie di ragazzi di ragazzi di oggi che hanno che cercano di guardare al di là del sentimento comune che gli dice che le cose sono impossibili. Ma sono storie semplici, la storia di un ragazzo che ha un mulino vicino Mondovì, è un mulino della sua famiglia, del suo nonno, aperto da suo nonno e poi di suo padre, che suo padre decise alcuni anni fa di chiudere. Lui aveva solo 18 anni e aveva fatto solo la terza media e sua madre gli diceva che doveva andare a fare il gommista. E quando il padre decide di chiudere il mulino perché non c'è più possibilità, lui gli dice: papà, posso provarci io? E il padre gli dice: ma come puoi pensare di farcela tu se non ce l'ho fatta io? E lui dice: io penso di farcela mettendo le macine a pietra. E il padre gli dice: ma l'ha tolta il nonno nel 54 le macine a pietra, ma fammi piacere. E allora lui gli dice: papà, ma guarda che io sento che in giro la gente le cose macinate a pietra vanno di più, ma chi te le compra qui nella nostra zona? Comprano tutti la farina industriale. E lui invece convince allora la madre a dargli i soldi per comprare 2 macine a pietra, ci prova, va in giro lui a venderle qua e là e poi pensa di fare il negozio, di farlo virtuale, di farlo su internet. Apre un sito internet e oggi è uno dei primi siti internet in Italia, ha 12 dipendenti e quest'anno ha fatto 2,5 milioni di euro di fatturato, perché ha visto qualche cosa che suo padre, la generazione precedente, non vedeva. La generazione precedente che fa un errore, che dice ai figli che non è più possibile, che non c'è più spazio. Invece dovrebbe aiutarli a immaginare spazi mentali diversi. Mario, ti chiedo 30 secondi di pazienza, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo da te. Si può fare ancora in collegamento con il direttore della Stampa, Mario Calabrese. Un paio di giorni fa è uscito il suo nuovo libro, Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. Lo spunto, una chiacchierata con un gruppo di liceali 3 anni fa. Un ragazzo alla fine dell'incontro si avvicina, ti fa un paio di domande timidamente e chiude con un'affermazione, ti dice: siamo nati nel tempo sbagliato. Con questo libro tu forse vuoi dargli una speranza, vuoi ribaltargli un po' questa sua visione, o veramente sono nati nel tempo sbagliato? Sono nati in un tempo di cambiamento e quindi devono cercare di immaginare il mondo come devono immaginare di costruire il loro mondo. È una cosa più difficile, nel senso che le generazioni precedenti, quella diciamo dei nonni, non la mia, la tua, ma quella dei nostri genitori, quella dei nonni, dei ragazzi di oggi, aveva in un certo senso, doveva impegnarsi certamente, studiare, ma quando prendeva una strada decidevi di iscriverti a medicina, il secondo momento di scelta era quello in cui decidevi la specialità. Poi però c'erano alcuni binari quasi automatici, facevi la specialità, poi entravi in ospedale e poi, come dire, la capacità, la vita, il caso, la fortuna, eccetera, eccetera, avrebbero detto se tu saresti diventato professore o primario oppure se non riuscivi a fare carriera. Ma diciamo così, il binario c'era. Oggi il problema è che è come se le piste, i binari fossero stati rimescolati e cancellati. Allora, però il problema qual è? Che ai ragazzi oggi si dice, i genitori naturalmente non per colpa ma per tradizione, perché conoscono solo quello, continuano a dare degli esempi del Novecento, continuano a indicargli delle strade che sono quelle del Novecento, ma che sono delle strade che non funzionano più. Perché i ragazzi sono i figli di una rivoluzione tecnologica che ha spazzato via tutto, che ha distrutto tutto. Cioè, comprano su internet i biglietti, li comprano low cost i biglietti dell'aereo, viaggiano nel mondo come non era permesso alle generazioni prima, sentono la musica gratuitamente, hanno l'informazione gratuita, vivono su WhatsApp o Facebook, e tutto questo però è qualche cosa che ha completamente distrutto il mondo precedente, perché solo gli esempi che ho fatto hanno messo in crisi o distrutto l'industria discografica, quella delle agenzie di viaggio, quella delle compagnie aeree, quella dei giornali e delle televisioni, eccetera eccetera. Adesso non so, Uber, quella dei taxi, Airbnb, quella degli alberghi. Cioè, c'è uno stravolgimento. Allora, il loro spazio lo devono trovare nel loro mondo. Devono immaginare, come quello del mulino, che allora nel loro mondo, cioè, non possono più pensare che fanno le cose tradizionali, perché ahimè tutto quello di cui loro vivono e che gli piace è quello che ha distrutto le cose tradizionali. E certo, oppure prendi il tradizionale e lo ribalti, come l'esempio del mulino mi sembra che sia eclatante. Lo reinventi. La nostra vita sarà meravigliosa, insomma, può essere comunque una certezza, o comunque dare questa speranza a questa generazione. A me piace pensare questo, intanto che qualcuno che come dire, che anche avere un sogno, una passione, una cosa che tiene vivi e che serve a dare una speranza. E l'altra è che quindi anche in una situazione di difficoltà, questi che io racconto avevano il coraggio di dirlo. E l'altra mi sembra quasi il messaggio che i ragazzi di oggi, è quasi un messaggio anche ai genitori, sì, ma guardate che poi, cioè, voi adesso avete paura per noi, c'è questo spirito di cupezza, ma il futuro è tutto da scrivere, avremo figli, ci sposeremo, faremo cose, cioè il mondo continua, il mondo non è finito. E no, forse c'è bisogno anche di un altro patto tra generazioni, che deve passare un po' tra la fiducia e un po' anche tra lo smollare le nuove generazioni, fidarsi veramente di loro e lasciare un po' di libertà, non perché il nuovo sia a prescindere meglio, ma perché ci sono tante energie che non hanno la possibilità di essere liberate in questo momento. Mario, grazie davvero per il tuo viaggio in questa generazione, buona domenica a tutti, in questo mondo meraviglioso. Ciao Mario, Mario Calabresi. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. Si può fare, guardare il presente per immaginarsi nuovi futuri, anche questa è la missione di questo programma. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi e per giocare i tre gli indizi della notizia della settimana per noi. Assente per malattia, battaglia navale, pedale. E andiamo ad Ascoli Piceno da Massimo. Ciao Massimo, buona domenica. Ciao, buona domenica. Ciao, hai individuato quella che abbiamo battezzato come notizia della settimana? Ma io ho pensato a Novak Djokovic, che è stato assente per malattia al torneo di Dubai, non ha potuto partecipare alla finale. No, non è lui. Ieri l'ho visto protagonista di una bellissima scenetta, ha fatto giocare un raccatapalle al suo posto per qualche minuto in questo scambio molto, molto divertente, sempre bizzarro. No, non è lui. Grazie Massimo per aver partecipato. Grazie, però. Grazie a voi, ciao. Andiamo a Milano da Paolo, ciao Paolo. Sì, pronto. Ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Allora, sì, penso che possa essere forse il ministro Padoan, una dichiarazione sua. Cosa ha dichiarato? Dice che se risolviamo il problema dell'assenteismo e gli dipendenti pubblici che giocano battaglie navale, forse questo potrebbe essere un pedale per l'economia. Bell'intreccio, ma non è lui, però accidenti, che bella ricostruzione, ti prendiamo come consulente per il gioco dalla prossima Perfetto. Settimana. No, Paolo, non è lui, grazie. Ciao. Però complimenti per voi. Grazie a te. A sede per malattia, battaglia navale, pedale, tre indizi, 800240024, in palio due biglietti per la mostra di Chagall a Milano. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai que bom que sou, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larararã. Sonorità brasiliane in cui si parla di occhi, in cui si parla di luce, musiche e parole per introdurre la prossima storia, una grande storia, la storia di un ragazzo che ha scelto di viaggiare il mondo guardandolo con gli occhi degli altri, perché lui gli occhi non li può più usare. Si chiama lightheplanet.net, il sito che racconta quella che apparentemente è una follia, che è quella del viaggiare con facendosi aiutare dagli altri, usando il proprio bastone bianco come biglietto da visita, dicendo: io sono qua, io voglio muovermi, forse ho bisogno della vostra mano, quindi io non ve la chiedo, voi comunque datemela comunque. In questo momento, dopo quasi un anno di viaggio, si trova a San Paolo, l'abbiamo svegliato all'alba locale, ma è qua con noi. Diamo il benvenuto ad Alessandro Bordini. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Buon anno intanto. Buon anno anche a voi. Da quant'è che sei in viaggio, Alessandro, ormai? Lo scorso, due giorni fa, ho compiuto 21 mesi. Ah, quindi ben più di un anno. Sono quasi due anni. Due anni, il tuo scopo era farlo, questo giro del mondo, con poche regole, no? Ma diciamo che le regole si sono ridotte sempre di più, man mano che il viaggio andava avanti e cresceva. Anch'io crescevo, cambiavo in qualche maniera. Adesso le regole sono semplicissime, sono basi, sono basilari, appunto viaggiare, incontrare gente e raccontare buone storie per ogni posto in cui vado. Uh-huh. E raccontare storie, fare incontri, fare foto e fare video anche, che è un'altra caratteristica del tuo portale, del tuo sito, del tuo viaggio, certo. foto e video che fai alla cieca, per l'appunto, no? Sono le sensazioni che cerchi di raccogliere. Uh-huh. Dipende dalle situazioni, nel senso che se in una determinata situazione qualche persona vicino a me, come mi aiuta a attraversare la strada, può anche aiutarmi a fare la foto di non so quale duomo, monumento, piazza, qualsiasi cosa, bene, altrimenti ne faccio 15-20 quando penso di avere più o meno inquadrato un obiettivo, e anche questo risulta a seconda delle situazioni, e poi ho un amico webmaster che mi aiuta a selezionare le foto migliori. Alessandro, quante nazioni hai toccato fino ad ora? Brasile numero 75. 75 nazioni. E cosa significa per te viaggiare facendoti aiutare dagli altri? Tu viaggi, raccontiamo la tua storia. Tu hai perso la vista dopo una caduta in un lancio col paracadute, se non ricordo. Lancio andata male. Anche tu, dopo un primo momento sicuramente di depressione, hai capito che c'era altro da vedere e altri modi per vedere. E questo viaggio è stata la risposta, prima di tutto, ai tuoi dubbi, probabilmente. Dubbi? Oh, ti abbiamo perso. Pronto? Aspetta che diamola il traffico e cerchiamo di richiamarti, perché forse è caduta la linea al volo. No, non abbiamo il traffico. Aspetta, adesso aspettiamo anche il traffico. Adesso ci sei, Alessandro? Sì, ci sono. Ok, perfetto, rimani lì un attimo comunque, diamo aspetta che stanno giocando col telefono. C'è il traffico, vediamo un po' se non c'è il traffico. questa è una, non c'è il traffico, ok, scusa Alessandro, stiamo cercando linea col traffico, però ti stavo dicendo, è stata probabilmente la risposta ai tuoi dubbi. C'è il traffico, Carmelo, c'è il traffico, stai lì Alessandro e torniamo immediatamente da te. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ancora con Si può fare, ancora con Alessandro Bordini, lightheplanet.net, il sito per conoscere il suo viaggio, questa settantina di nazioni toccate in giro per il mondo, 21 mesi cercando ospitalità, cercando di vedere, cercando di raccontare, cercando di conoscere gente, cercando di trasmettere un messaggio. E stavamo dicendo, Alessandro, perché hai scelto di partire e perché hai scelto di partire in questo modo? Allora, io ho scelto di partire proprio per dimostrare appunto quello che è il messaggio di base di questo viaggio. Il fatto che viaggiando, spostandosi e animati da pensiero positivo si possono incontrare persone buone in ogni posto del mondo. Mm-hmm. Tu hai un bastone bianco e uno smartphone, sono questi di fatto i tuoi due biglietti da visita? Beh, da pochi giorni, da poche settimane, il mio equipaggiamento si è arricchito e è venuta fuori una nuova. Adesso mi sono dotato anche di una macchina fotografica abbastanza pratica, quindi magari i video e le foto saranno di qualità migliore, qualità grafica migliore. E mi raccontavi che l'idea di partire, ricordo, era stata forse una stazione in Romagna dove per ritardi di treni o coincidenze perse ti sei trovato comunque da solo in questa stazione, non sapevi dove eri, non sapevi dove ti trovavi, non sapevi neanche cosa fare. E in quel momento qualcuno si è avvicinato e ti ha chiesto, forse hai bisogno. E quella cosa ti ha illuminato, quella cosa ti ha fatto capire che forse potevi viaggiare il mondo proprio in quel modo? Diciamo che sì, tutti i problemi relativi a quella giornata erano dipesi da me, nel senso che per un mio errore mi sono trovato da solo nella stazione di Cesena. L'aiuto che ho trovato in maniera casuale quella giornata mi ha appunto, sugli occhi, mi ha appunto fatto ragionare su le potenzialità che in realtà avevo io per muovermi, non solamente seguendo tutte le percorse, i percorsi che ci sono oggi a disposizione per i non vedenti offerti da Trenitalia per quanto riguarda lo spostamento di treno, ma anche potermi affidare all'aiuto della gente che trovavo casualmente. Questo appunto è quello che sto facendo in maniera un po' più allargata adesso. Mille aneddoti, immagino, mille cartoline di questo straordinario viaggio. Dov'è che te la sei vista brutta? E se uno ti dovesse chiedere qual è il ricordo in cima a tutti gli altri, o quello che meglio rappresenta il viaggio, cosa sceglieresti? La sua vista brutta, mai. Diciamo, la mia vita è in pericolo, direi mai. A volte me la sono, io mi sono sentito comunque in una situazione di non comfort alcune volte per problemi di vista, per problemi diplomatici. Quando mi era scaduto ero in Benin piuttosto che in Congo, ho avuto problemi in Teheran per ottenere il visto indiano. Però che problemi maggiori che ho riscontrato io per quanto riguarda questo viaggio sono appunto state queste carte. Sì. Che servono per attraversare una frontiera. Certo. E il ricordo maggiore, questa è un'altra domanda, un po' un ricordo principale, ne ho centinaia, uno principale. Diciamo che ogni 30 secondi te ne potrei dire uno diverso, quello che mi passa per la testa. Immagino. Quando tornerai in Italia? Quando concluderai il tuo viaggio? Allora, il rientro era previsto, il termine di questo viaggio era previsto adesso, dovevo tornare verso novembre-dicembre, per motivi di vario genere il viaggio si è un po' dilatato e quindi credo che per la prossima estate sarò di ritorno in Italia. Ah, quindi rimani ancora in viaggio. Lightheplanet. Il caldo. Certo. Lightheplanet.net, ricordo ancora il portale per scoprire, vedere le tante immagini, le tante foto, i tanti video anche bizzarri e divertenti di questa straordinaria avventura, e per entrare in contatto anche con Alessandro, perché insomma dopo questo viaggio ha sicuramente tanto da dire e tanto da dare. Ciao Alessandro, grazie, buon anno. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. La bellissima storia che ci porta ancora al nostro gioco 800 24 00 24, numero verde, assente per malattia, battaglia navale, pedali, trendisti scelti per tentare di individuare quella che abbiamo noi decretato come notizia della settimana. Ci chiama Giuseppe da Roma. Ciao Giuseppe. Ciao Federico, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Buongiorno, grazie a te, la trasmissione per fortuna c'ha due ottimi conduttori, solitamente io oggi faccio il bidello ma mi sono molto divertito a raccontare l'Italia migliore, l'Italia che piace, quindi mi prendo un pezzettino dei tuoi complimenti ma poi il resto così li rilancio ad Alessio e Carlo. Allora Giuseppe, pensi di aver trovato la notizia della settimana? Lo spero. Vai. Credo che sia Bonovox degli U2. Mm-hmm. Cosa ha fatto Bonovox degli U2? Beh, Bonovox ha fatto una cosa carina, cioè ha scritto un piccolo libro per un grande anno in cui fa un bilancio della band del 2014. Sì. E diciamo utilizza le lettere dell'alfabeto per parlare appunto di vicende che riguardano la band, riflessioni, considerazioni eccetera, e alla lettera I parla di sé e dell'incidente che ha avuto il 17 novembre al Central Park quando è caduto dalla bicicletta. Sì. Per cui ha avuto una serie di fratture e probabilmente non potrà più suonare la chitarra. Adesso l'applauso non è per Bono che non può più suonare la chitarra, ma è per te che hai individuato quella che abbiamo, quella che, grazie, che abbiamo scelto. È vero, assente per malattia, e infatti lo è. Però è stato un po' anche il tormentone della settimana, in effetti, l'assenza per malattia. Quindi mi piace la battaglia navale, U2, pedale in tutti i modi, sia la chitarra sia quella della bicicletta. C'era tutto. Bravo Giuseppe, sei stato attento, grazie, e puntuale, e hai guadagnato questi due biglietti per visitare la mostra di Chagall qui a Milano, quindi ti aspettiamo. Ciao e buon anno. Grazie a te. Questo si può fare, vi ricordo che potete riascoltare la puntata in podcast dal nostro sito radio24.it. Ci avviamo verso la conclusione della puntata con noi oggi la musica dal vivo di Soltanto. Chiudiamo con anche un aneddoto divertente che ti riguarda, perché voi dite la vita da basca è una vita di sacrificio, il freddo, il gelo, le poche monetine nella custodia. Tu hai raccolto la fidanzata grazie alla musica di strada, vero? Sì. È successo ormai 3 anni fa, era tra l'altro inverno, e mi trovavo a Milano sempre in Piazza San Babile, ero quel giorno a suonare, e mi ricordo appunto di aver avuto questo colpo di fulmine per questa ragazza che si chiama Alessandra, che oggi per fortuna è la mia ragazza. E, insomma, lei era arrivata quel giorno in bicicletta con le cuffie nell'orecchio, ascoltava la musica e andava a comprare un vestito in centro. Siccome ha visto appunto un po' di gente davanti a uno dei negozi, però lei sentiva la sua musica, quindi certo, non sentiva me suonare, si domandava che ci facesse quella gente lì, cioè, magari stanno facendo qualche saldo, qualche sconto nel negozio. Quindi si è avvicinata, si è fatta un po' spazio e mi ha visto suonare e si è tolta le cuffie per sentire cosa stessi suonando, e io stavo suonando la stessa canzone che lei stava ascoltando. era un segno, vedi? Che era The Scientist, una canzone dei Coldplay. Ok, chiudiamo con te la musica dal vivo e insomma rilanciamo anche l'invito per chi fosse a Milano oggi dalle 18 in Piazza della Scala per vederti ed ascoltarti. Sarò lì anche domani sempre dalle 18 alle 20, e invece martedì, giorno della Befana, sarò in Corso Vittorio Emanuele dall'1 alle 4. Perfetto, la tua chitarra, vai. Questa è The Scientist. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it was. Grazie a Soltanto, clona sonora di questa puntata. Lo potete trovare su Facebook, nelle sue pagine ufficiali, attivissimo sui social, un modo per seguirlo. Un grazie a Margherita Ina, Carmelo Lauricella con me oggi qui a Si Può Fare. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Adesso il GR, noi ci ritroviamo qua sabato a mezzogiorno con l'Altra Europa. Ancora buona domenica, ancora buon anno da Federico Taddia. Ciao!